che riprenderà invece la settimana prossima. Siamo molto lieti questa sera di ospitare Paola Baccarelli, Giuseppe De Cesare e Mario Coletti, che ci parleranno e ci faranno emozionare probabilmente con la presentazione del nuovo romanzo di Mario Coletti, intitolato Il Gruzzolo. Io lascerei la parola ai nostri ospiti e vi augurerei un buon ascolto e una buona serata. Grazie. Inizio io allora per inquadrare un po' questo, spero che uscirete di qua con un gruzzolo di tante idee, perché per me è stata veramente una sorpresa questo romanzo. Innanzitutto il ringraziamento di mia moglie. Allora, io non sono un lettore di romanzi, io leggo vagonate di saggistica, ma i romanzi non c'ho tempo, quindi il fatto che mi sia messo a leggere questo romanzo l'ha resa molto, molto soddisfatta. Adesso la sfida sarà a lei a leggerlo e a seguire tutte le vicende molto complicate che racconta questo romanzo. È un romanzo strano, perché è un giallo di fatto, no? È anche un giallo. Sì. Ambientato in Alto Adige, e questa è la cosa singolare. Ci sono stati altri romanzi di recente che si sono occupati dell'Alto Adige, di non locali, non so, Melandri, Eva Dorme. Un'altra cosa strana che è uscita in questi ultimi anni è Tom Pex, che è un inglesista che insegna a Verona, di Manchester, che ha ambientato un suo romanzo, non so se l'hai letto. Ho sentito La notte da Clever, mi sembra, ambientato a Lutago, e questo romanzo qui è ambientato tra San Candido, un po' in tutto l'Alto Adige, ma il cuore è San Candido. Poi lo prendete e volete vedere qual è la trama di massima, c'è un pezzetto che in maniera giornalistica la descrive. È una storia molto, ma molto particolare, ambientata tra la guerra mondiale, tra il terrorismo, con vari personaggi, e il personaggio principale, Marcello, altra cosa singolarissima, di fatto la sua vicenda si svolge tra il Portogallo e l'Alto Adige, e infatti, Palma. Vedete, alle nostre spalle ci sono, scorrono delle immagini alternate un po' tra Alto Adige e esattamente il nord del Portogallo, poi la costa nord del Portogallo. Quindi è un accostamento stranissimo. Direi che Mario Coletti, andando alla mia saggistica e tirando fuori una definizione che ho letto in questi giorni di Gianfranco Pasquino, il politologo, è un cittadino europeo nato a Città di Castello, vissuto a Spoleto, ma cittadino europeo che guarda anche alle vicende altoatesine, quindi con un occhio esterno ma molto documentato, su cui poi vorrei fare delle domande, entrando oltre che nelle vicende storiche dell'Alto Adige, nella psicologia dell'Alto Adige, degli italiani e dei tedeschi. E ci sono anche delle chicche, delle frasi, dei dialoghi in dialetto pusterese, ad esempio, molto attento alla filologia, con qualche sbavatura forse, l'editing forse su qualche cosa ha peccato. Ci sono alcune cose di cui ci siamo accorti, purtroppo solo dopo, un paio di cose. E però dimostra di essere un grande conoscitore dell'Alto Adige, un po' di tutto l'Alto Adige, perché le cose principali si svolgono in Pusteria, ma poi c'è la Val Passiria, poi c'è San Genesio addirittura, con vicende che sono nel sangue proprio di questa terra, cose dette e non dette, e questo romanzo ricostruisce proprio la vita di un italiano, perché era di lingua italiana, che si stabilisce prima a Bolzano, poi a Bressanone, poi a San Candido, e la sua vita è piena di misteri che vengono svelati al nipote che viene dal Portogallo con tre lettere, e da lì si intrecciano. Vi assicuro che è piacevolissimo leggerlo, perché la costruzione proprio del romanzo è una macchina perfetta. Forse bisogna ringraziare il cagnolino, come si chiama? Kiwi. La nostra bambina. O forse bisogna ringraziare Kiwi, perché con le passeggiate, cos'era, lungo il Tevere, sì. Ha martingegnato questo sistema perfetto. Sì, un cane che ti obbliga a uscire, a riflettere, no? Ecco. Scusi, ho un po' la mai dei giardini. È vero. L'ha letto già il romanzo? È vero, questa è una mancanza. Rimedierò la prossima volta. No, perché non, semplicemente perché conosco di meno e quindi non mi sono permesso. Però i latini è la più vecchia lingua del mondo. Certo. È vero. Comunque, ecco, la piacevolezza di questa macchina perfetta, anche nelle piccole cose ho notato, anche nelle disquisizioni, la lettera all'amico iniziale che poi viene ripresa alla fine, c'è tutta una costruzione che fa ritornare un po' tutti gli stimoli che sono stati posti. Quindi è stato un lavoro penso periglioso in famiglia, perché molto probabilmente avrà elucubrato da molti anni che ci ecco da quanti fatto. Anni è? Dunque, le prime idee risalgono a 4 anni fa, poi il lavoro, insomma, 3 anni ci sono voluti tutti, anche perché faccio anche altre cose. Allora, vi devo dire che Mario Coletti è un uomo dalle molte realtà, economista, informatico, documentarista, scrittore, lettore, regista. Ho visto l'altra sera per documentarmi, perché non ci siamo conosciuti stasera, ho visto quel documentario su Hemingway di Bagliori d'Autore, che è una rassegna che si fa a Perugia, a Milano, no? Se non sbaglio, due voli. Molto interessante. E dalla lettura di questo romanzo vengono fuori anche le ricerche, evidentemente, che Mario Coletti ha fatto sui classici, su Shakespeare. Tabucchi, io ci sento anche, saranno le assonanze portoghesi, però ecco, si sente che c'è una profondità di scrittura e di analisi che viene dal profondo. Vi dicevo che è una storia molto, molto strana, molto singolare, molto che a me che vivo in questa terra mi ha ricordato, ad esempio, dei personaggi reali. Ci pensavo stamattina. Allora, c'è il giornalista, come si chiama? Leo Lanz. Lanz, che poi è il nome di una guida alpina morta nel 2005, che è stato evidentemente un consigliere di Mario Coletti. È morto in Val Fiscalina. E però la figura dà il nome di questo Leo Lanz, questo giornalista, che a me ricorda un mio amico che forse voi avete conosciuto di Bolzano, che si chiamava Franz Berger, che era il cronista del Dolomiten e che conosceva tutto delle trame del terrorismo, delle inchieste, delle indagini. Era una memoria. Facevamo, quando io sono arrivato a Bolzano, facevo il giornalista, andavamo a fare il giro di Nera assieme, anche lui è morto a 91 anni, era un po' il decano dei giornalisti altoatesi. Beh, la figura di questo Leo Lanz mi ricorda il mio amico Franz Berger, che era un personaggio incredibile. E così altre figure che ci sono in questo romanzo, il colonnello dei carabinieri, il mettere tutte le caselle a posto del carabiniere, ma anche del nipote che si trova in mano questa storia sconvolgente di questo zio che risulta essere stato ricchissimo, oltre che benefattore, e che alla, prima di morire sistema tutto quanto, la famiglia dell'ex terrorista o indagato per terrorismo dei Bass, che nasce in questa terra, che torna dopo la prigionia, che mette in piedi una tipografia qui a Bolzano, vicino a una chiesa qui di Bolzano evidentemente, su indicazione, su richiesta di un prete, Pfaff, si scrive maiuscolo, perdono gli errori, e che mi ricorda anche questo, mia moglie è testimone, sono andato prima a vedere i miei saggi, ricorda tanto un prete di Vipiteno, Don Corradini, questo Josef Johann Blass, che prima aiuta gli ex nazisti a rifugiarsi in America Latina, e lì c'è tutta la storia ricostruita da Steinacher, ad esempio, pochi anni fa. L'avete letto il libro di Steinacher? Era Vipiteno, Pripke, altre storie di questo tipo. E sono all'interno di questo personaggio che fa di fatto arricchire lo zio dell'Alto Adige, da cui vengono le sue ricchezze, che lui usa per aiutare ad esempio il Valtaler della Val Bassiria, la sua ex fiamma di Brunico, con un gioco a intarsio di caselle che poi si sistemano tutte quante. È una serie di figure, di personaggi, di storie che si intrecciano e tutte poi alla fine si risolvono in qualche modo, con colpi anche di teatro. Potrebbe essere questo romanzo anche la base, forse si potrebbe anche proporre, per un bel film da realizzare in Alto Adige. Bisognerà vedere con la BLX, BLS e via dicendo, perché come la Die Walsche di Soderer o altri scritti di questo tipo, meriterebbe proprio per la pregnanza storica poi dei personaggi e l'analisi psicologica. Un'altra idea che mi è venuta in mente leggendo questo romanzo è che Mario Coletti ha dei neuroni specchio che funzionano molto bene. Cosa intendo dire? Applichiamo le neuroscienze all'analisi di un romanzo. No, e vi dico perché. Perché è una lotta quotidiana, lo sappiamo un po' tutti noi, no? A spiegare a quelli che vengono da fuori le nostre storie, le nostre sensibilità di lingua tedesca, di lingua italiana, spesso e volentieri ci affettano come la mortadella, no? Con i luoghi comuni che ci vengono appiccicati addosso. Mario Coletti, pur essendo venuto qui le prime volte come turista, dimostra invece di avere dei neuroni specchio che funzionano molto bene e che riesce a creare un'empatia tale, evidentemente dal risultato, per cui riesce a analizzare i personaggi andando nel profondo della psicologia di noi, che siamo un pochino strani, bisogna dire, come gli uomini sono anche strani. Ognuno in Italia è un po' strano, ma qui è particolarmente difficile analizzare queste psicologie, e lo fa con molto rispetto, cosa che spesso non c'è in altri casi, dove si affettano le cose un tanto al chilo con i luoghi comuni nazionalisti da una parte, dall'altra e via dicendo, e guarda all'interiorità delle persone, quindi dimostrando una grande capacità di empatia con le persone, perché alcuni comportamenti anche che vengono descritti di alcuni personaggi sono tipici nostri, il sistemarsi il cappello, sono piccole cose che evidentemente hanno colpito lo scrittore Coletti, e che hanno un significato, che danno la dimensione, il profumo, l'odore, i rapporti umani che ci sono da noi nei nostri paesi. Mia moglie mi ha detto di essere breve, se no non finisco più. Allora, dopo farò delle domande, però ecco, ci racconti un attimo, facendo una sintesi magari, partendo da quella sintesi che dicevo, la vicenda, perché vi assicuro è molto ma molto complicata, sempre con colpi di scena che si susseguono fino alla fine. Allora, salterò ovviamente i colpi di scena perché poi... certo, dopo se altrimenti... Partiamo dall'inizio e andremo fin dove si può arrivare. Allora, Alberto Ghiraldi, che vive, di cui un po' già qualcosa ha anticipato, è un anziano, una persona ormai ultra novantenne che vive ormai solo a San Candido, e quando muore viene avvertito il suo nipote Marcello, che però si trova da molti anni a vivere in Portogallo. È l'ultimo e il più stretto parente rimasto, quindi tocca a lui muoversi, andare non solo per il funerale ma per tutte le incombenze che ovviamente ci sono in questi casi, sistemare le cose di famiglia, tutto quello che può servire. Questo zio Alberto, un personaggio un po' particolare, sempre sopra le righe anche in vita, anche da giovane, gli lascia delle incombenze, gli lascia delle lettere, appunto, delle incombenze, delle sono questioni personali che lui desidera vengano chiuse dopo la sua morte, e per cui incarica questo nipote Marcello, e quindi appunto da lì deriverà l'incontro con una ex fiamma di cui nessuno sapeva nulla, degli anni della gioventù di zio Alberto. Si scoprirà l'amicizia appunto con un ex, un terrorista, o più che terrorista forse era un fiancheggiatore all'epoca, un amico morto molto giovane negli anni 60 e agli inizi degli anni 60, e via via altre vicende che poco alla volta mostrano dei lati inaspettati e insospettabili di questo zio Alberto, che è un po' una figura un po' a due facce, questo era anche uno dei temi che mi interessava un po' indagare dal punto di vista umano, psicologico. Quanto spesso dietro alle apparenze, dietro alle apparente normalità delle vite si nascondono storie a volte incredibili, per cui questo personaggio dello zio Alberto deriva un po' da questo, deriva dalla voglia di raccontare un personaggio da tutti considerato generosissimo, simpatico, molto affabile, cordiale con tutti, ma che sotto sotto nella sua vita aveva avuto, non è esatto dire una doppia vita, perché non è così, però diciamo qualche scheletrino nell'armadio che poi verrà fuori via via nel corso del romanzo, stavo per dire dell'indagine, ma... prima l'hai definito un giallo, lo è, sì, dal punto di vista, allora non è, chiariamo, perché poi si creano delle aspettative un po' fuorvianti, non è un giallo alla maniera classica, non c'è il morto ammazzato, non c'è l'investigatore, non c'è l'assassino, però lo è perché in effetti c'è un mistero, c'è una verità da inseguire, quindi da ricostruire. Questo senso i meccanismi del romanzo somigliano molto, o sono quelli del romanzo. Anche i meccanismi della suspense sono un po' da Hitchcock, Beniamino Placido l'avrebbe scarnificato. Io sono in scuola, il mio maestro letterario ideale è stato Georges Simenon. Simenon si sente. E quindi l'imprinting mi è rimasto è quello. C'è poco da fare, e quindi sì. Tra le varie cose che si scoprono, così vi spiego anche il titolo del romanzo, è appunto il fatto che viene alla luce un patrimonio, un'eredità abbastanza molto più cospicua e molto più importante di quello che tutti avrebbero immaginato. Era un piccolo tipografo, un piccolo imprenditore, lo stesso Marcello, quando dal Portogallo si muove dopo la morte dello zio, immagina che troverà qualche migliaio di euro al massimo lasciato dallo zio, invece trova cifre ben più importanti, che non è appunto il gruzzolo che tutti immaginano. E da lì anche questo è un elemento chiave, perché poi a un certo punto Marcello inevitabilmente si chiede: ma da dove vengono tutti questi soldi? Come ha fatto a fare tutti questi soldi? Perché poi invita lo zio Alberto. Era stato sempre molto attento a non a mantenere sempre una vita molto modesta, molto tranquilla, quindi anche quando aveva fatto, nella maniera che si scoprirà nel romanzo, un bel po' di soldini, non l'aveva dato a vedere. Tutte queste vicende umane, come è già stato poco fa anticipato, vanno a intrecciarsi con con la storia controversa e molto complessa e difficile dell'Alto Adige del dopoguerra, dal dopoguerra a, insomma, per fino agli anni 70, possiamo dire 80. E quindi appunto c'è la stagione del terrorismo, ci sono quello che mi interessava effettivamente, una delle cose, dei punti chiave che mi interessava anche mettere in luce, era proprio intanto parlare di queste cose, perché corretta, più possibile correttamente. Io infatti un po' il fatto che certi personaggi somiglino o ricordino storie vere, da un lato mi impressiona un po', però non mi stupisce più di tanto, perché sono un po' un maniaco della verosimiglianza, quindi della plausibilità delle storie e dei personaggi. Finché non sento che funzionano, finché ho in quello che rileggo, di quello che scrivo, ho anche solo il sospetto che ci sia qualcosa di finto, di non plausibile, non vado avanti. Per cui da questo punto di vista ci posso credere. Però ecco, appunto, una delle spinte, una delle molle che mi ha spinto a scrivere di queste storie, di queste vicende anche storiche, è stato il fatto che, e questo non so se questo è, vi do una brutta notizia, ma al di fuori dell'Alto Adige non se ne parla più e non se ne conosce più granché, soprattutto se parliamo dei giovani, delle ultime generazioni, perché tanto quelli della mia età, ancora io ricordo da bambino i telegiornali, e quindi che ricordo che c'era una questione Alto Adige in giro, che c'era qualcosa che stava succedendo, ma i più giovani non ne sanno molto, anzi quasi niente. Ci sono, come si suol dire, poche idee ma confuse, molte cose così, molto idee molto vaghe, stereotipi, cose per sentito dire, luoghi comuni, eccetera. Molti lettori, persone che hanno già letto il romanzo, mi hanno, e sono persone, come io amo dire, mediamente informate dei fatti, cioè persone comunque, insomma, che si informano di cultura meglio alta, eppure anche loro mi hanno detto, qualcuno mi ha anche ringraziato, perché mi ha detto: guarda, così sono venuto a sapere di cose che non sapevo sull'Alto Adige, su questa storia. Il che da un lato è una buona notizia, perché vuol dire che da un po' di anni le cose servono, che non fa notizia, però certo, secondo me meritava un po' di attenzione. Io non ho la pretesa, non essendo al Protesino, non ho la pretesa, questo romanzo, di spiegare certe cose, di raccontarle per filo e per segno, perché non avrei potuto, anche volendo, per quanto mi sforzi di creare una plausibilità, come dicevo poco fa, però ovviamente non essendoci nato e cresciuto, avrei fallito se avessi preteso di spiegare. Mi limito a raccontare un po' di cose, a ricordare che c'è stato un certo passato, che ci sono state delle storie molto dolorose anche e sofferte. E questa è stata una delle cose che mi ha spinto a questo. Poi un altro motivo, tanto qui parliamo a ruota libera della genesi di questo romanzo. Allora, come diceva Umberto Eco, ha scritto nelle postille Il nome della rosa, inizialmente avevo voglia di ammazzare un monaco. Adesso quel popò di romanzo che stratificato su N livelli storico, filosofico, semantico, eccetera, che tutto sia nato solo perché non ci credo. Però in un certo senso, da un certo punto di vista, può essere che gli sia venuta così una fantasia di creare una storia attorno a un monastero. Ecco, per te qual è stato? Ecco, arrivavo a questo. Il mio monaco sono stati i paesaggi della Pusteria, ma non tanto il paesaggio in sé, il paesaggio anche umano, intendo, cioè queste vallate che d'inverno con questi ritmi di vita anche così diversi dai nostri, che ovviamente condizionano poi anche la vitalità, la psicologia, e da lì girando, specialmente di notte, d'inverno, con questi pomeriggi, vedere questi paesi, e da lì è nata la domanda, ma che poi riporto adesso, Paola ci leggerà subito un pezzo, e li ho trasferiti ai pensieri di Marcello, che gira una notte per San Candido e sul ghiaccio che scricchiola, perché si fa una passeggiatina solitaria di sera, e perché è da lì che è nata un po' anche l'idea, cioè vedere questi paesi con queste case dove dentro c'è una vita, ci sono delle storie di queste famiglie, c'è tutto un mondo che però è chiuso, è come raccolto in un mistero, e da lì ho cominciato a incuriosirmi, a pormi delle domande. Vabbè, andiamo con... Così, dopo aver cenato in albergo, me ne andai, imbottito dalla testa ai piedi, a fare due passi per le strade del paese, ormai vuote a quell'ora di sera. Una passeggiata a 12 gradi sotto zero, con lo strato di ghiaccio del marciapiedi che ti scricchiola sotto la suola dello scarponcino, non è in teoria neanche una vera passeggiata, una di quelle fatte per il piacere di farlo. Ma io ne avevo bisogno per altri motivi. Avevo bisogno di sentire l'aria di quei paesi, il silenzio sordo della notte in mezzo alle neve. Dovevo passare per quelle vie deserte, sotto i muri delle case, lividi alla luce dei lampioni, e sentire fino in fondo quel freddo che costringe tutti a rintanarsi in casa, o al massimo al bar. Perché era solo a quell'ora di notte, in quel deserto gelido, con i negozi chiusi e i portelloni delle finestre sbarrati, che potevo vedere o immaginare uno scenario vagamente simile a ciò che erano quei paesi tanti anni prima, quando non c'erano i turisti e alle 6 del pomeriggio erano già tutti chiusi in casa, quando l'Alto Adige era in guerra di contadini e allevatori invasa dai militari e non c'era poi tanto da divertirsi. Quello era l'Alto Adige di zio Alberto e zia Marta, il Sud di Tirol di Gerhard Waldthaler e di Magdalena Brugger, l'Alto Adige nudo e crudo che avevo conosciuto da piccolo nelle nostre visite agli zii e che ora, poco alla volta, riaffiorava alla mia mente in immagini sparse. Quel regno così lontano dal mio quartiere a Parma, così meravigliosamente verde d'estate, ma con quei lunghi inverni rudi e difficili, intrappolato in un silenzio affascinante e minaccioso, che solo ora mi pareva di riconoscere. Il silenzio che avvertivo nella casa dello zio, a Bressanone, quando ci fermavamo lì per pochi giorni durante le vacanze di Natale, e calata la notte, con Annalisa guardavamo le luci della via dalla finestra della sua cameretta. Che vita si faceva in quei posti 50 anni fa? Che facce giravano? Che si diceva? Che dicevano quelli che parlavano italiano e quelli che parlavano il tedesco? Continuai a vagare per le strade vuote del paese e l'illusione di calarmi il più possibile in quel mondo, persino di capirci qualcosa di più, mi portò ancora a camminare dalla chiesa al fiume e poi ancora verso l'uscita del paese, oltre la ferrovia e la statale, dove, oltre il cartello San Candido in campeggiava la grande caserma dell'esercito, ormai a mezzo servizio. Una punta esistente di freddo cominciava a penetrare anche attraverso i guanti e tornai verso il centro del paese. Feci l'unica cosa sensata che si potesse fare in una sera come quella e, incrociata l'insegna di un bar, decisi di rifugiarmi là dentro a bere qualcosa, spostata la pesante porta in legno e doppio vetro, avanzai verso il bancone, osservato distrattamente dagli unici presenti, tre ragazzi e due ragazze, sedute ad un tavolo sotto il quale il grande televisore acceso. Parlavano a voce alta, in tedesco sudtirolese, interrompendosi di tanto in tanto con delle fragorose risate. Il tizio del bar, un quarantenne biondiccio e spettinato, aveva cominciato a ripulire il banco e a rimettere in ordine bicchieri e piattini appena usciti dalla lavastoviglie e forse aspettava solo che i ragazzi se ne andassero per chiudere. Buonasera, freddino, eh? Freddino, eh? Questo freddino è un'ispirazione anche per Marcello, che trova da questo freddino un'ispirazione anche per ricostruire, rimuginare i vari tasselli che lo zio gli propone con queste tre lettere. Sì, lui inizia questa sorta di indagine quasi controvoglia, perché insomma gli tocca farlo. Lo fa per affetto nei confronti dello zio, ma poi si incuriosisce e, come dicevo poc'anzi, comincia a porsi delle domande, perché non gli tornano, non gli quadrano tante cose, e quindi da lì va a fare visita a questa sua vecchia fiamma che aveva avuto negli anni primi anni 60 più o meno. Sì. No, è all'inizio, quando è ancora a Bolzano, l'assume a Bolzano. Sì, sì, no? a Bolzano, sì, sì. Ma quindi è anni 50. Arriviamo, sì, fine anni 50 all'incirca, sì. Più tardi troverà poi l'amico Valtar, gli eredi dell'amico Valtar morto, perché poi si verrà a scoprire che questo zio aveva aiutato lungamente la famiglia, perché si sentiva in colpa per questa morte accidentale di questo amico. Ma su questo non vado oltre, perché poi c'è una questione, documenti falsificati, insomma c'è stato un intreccio, un incrocio di vicende abbastanza complesse. e entrerà in contatto con questo ex ufficiale dei carabinieri, pensionato, che però appunto negli anni 60 si era trovato a incrociare la figura di zio Alberto e di Valtaler, e con lui farà una lunga chiacchierata proprio camminando qui al centro di Bolzano fino al Monumento della Vittoria, e che sarà una chiacchierata molto illuminante per entrambi. E sì, e poi c'è l'apertura del testamento, e da lì insomma altre cose. Il punto chiave poi arriverà quando, anche qui senza voler svelare troppo, però insomma Marcello comincerà a rovistare, perché viene il momento in cui dice: vabbè, devo capirci qualcosa di più a tutti i costi, allora va a rovistare tra i vecchi documenti, la contabilità dello zio, eccetera, per cercare di ricostruire passo passo tutta la sua storia dal dopoguerra, dal 46, dal 46-47, quando lo zio torna dalla prigionia, durante la seconda guerra mondiale torna dalla prigionia in Germania, e da lì in poi cercare di capire cosa ha fatto, come ha potuto costruirsi anche questa sua fortuna economica, e soprattutto poi che ruolo hanno questi personaggi che lo hanno circondato, con cui comunque lui ha avuto a che fare, con alcune sorprese finali che neanche sotto minaccia di morte vi svelerò. Tutta questa vicenda, per inquadrare questa figura di Marcello, è un ex avvocato cresciuto a Parma, che poi per amore si trasferisce in Portogallo. Quindi ecco, c'è la doppia vita dello zio, la vita sgangherata di Marcello, che gli si è sfasciata la famiglia, sta fallendo la sua azienda di vini a Porto, e quindi vive due dimensioni diverse, una in Portogallo e una a San Candido in Valpusteria. Una vicenda anche lì un po' complicata, la rottura del rapporto con la moglie in Portogallo, e tutta questa trama molto complicata in Alto Adige. Perché questa scelta Portogallo e Alto Adige? Allora, hai già centrato un punto essenziale. Questa vicenda è fatta, questo romanzo è fatto di duplicità. Ci sono due, anche quasi due protagonisti, perché poi Lio Narrante è Marcello, ma il vero protagonista, che forse è lo zio Alberto. C'è una sorta, come dicevo prima, quasi di doppia vita, se non proprio doppia vita, ma insomma una sorta di duplicità anche nella persona di zio Alberto, che via via si rivela essere un po' diverso da quello che tutti ricordavano. C'è una duplicità appunto nella vita anche di Marcello, divisa un po' tra l'Italia e il Portogallo. Si trova lui stesso di fronte a un bivio a questo punto della sua vita, quindi è un po' il duplice domina in questo romanzo. E quindi ovviamente l'Alto Adige, dove il duplice domina, perché qui è tutto, a parte il signore giustamente ci ricordava che non è doppio ma è triplo, c'è anche però comunque sia c'è comunque un confronto tra più di una cultura, più di una verità, più di una lingua, più di una, è la prima cosa che chi viene da fuori nota immediatamente, e quindi era lo scenario ideale per una storia di questo tipo. Soltanto che adesso non ricordo più la domanda. Il Portogallo. Allora, il Portogallo perché mi serviva, perché è un altro luogo del cuore, è un paese che ho conosciuto e che mi ha affascinato profondamente. Cercavo un luogo per Marcello, avevo necessità proprio per la costruzione della vicenda che si trovasse lontano, non solo dall'Alto Adige ma anche dall'Italia proprio, e quindi che avesse però certo, e cercavo anche un posto di mare proprio per creare anche questa, perché il romanzo si ha questa alternanza di passaggi ambientati in Alto Adige, con delle riflessioni e dei siparbi, chiamiamoli così, in Portogallo, e cercavo appunto un luogo aperto verso il mare, addirittura verso l'oceano, però cercavo al tempo stesso un posto che non fosse, come dire, esotico, un posto, ho immaginato vari luoghi, ma il Mediterraneo mi sembrava un po' troppo, sì, scontato, non so, insomma, un po' troppo, ormai anche dovunque, dalla Grecia alla Tunisia, è tutto troppo turistico, rischiavo di creare un mare così da vacanze. Quindi cercavo invece un luogo più solitario, più appartato, e il Portogallo lo è. Poi questo clima, ecco, avrete visto anche delle immagini, è molto atlantico il Portogallo, proprio è completamente diverso anche dalla Spagna, nonostante siano vicini. Quindi mi era assolutamente congeniale in questo senso anche perché aveva un po' quasi, noi abbiamo avuto un re in esilio in Portogallo, quindi questa idea di un esilio, quasi di un luogo che non fosse proprio così vicino. Potremmo anche, sì, a questo punto è vero, c'è una lettura da poter fare, sì. L'infinito dell'oceano, sì. È un momento in cui Marcello si trova a fare delle riflessioni, è verso il finale del romanzo, ma insomma si trova nella sua casa di un paese che si chiama Praia de Mira, che è un piccolo paese lungo la costa nord del Portogallo, e quindi guardando l'oceano gli vengono in mente un po' di cose, un po' di pensieri. Lo sento da casa mia il suono dell'oceano, lo sento bene, non ho neanche bisogno di mettermi in terrazza, basta che siano socchiuse le finestre. Anche per questo, a suo tempo, decisi di tenere la casa di Praia de Mira, ed è anche per questo che, lottando contro il buon senso, rimando all'infinito la decisione di venderla. Anzi, detto tra noi, è soprattutto per questo. La voce dell'oceano, specie di notte, quando finalmente si fa un po' di silenzio per le strade, ha un suo potere, arrivo a dire terapeutico, che può aiutare a rimettere a posto un po' di cose. Me ne sono accorto, ad esempio, in quella sera nella quale, accompagnato solo da un paio di valigie e uno scatolone di scartoffie e oggetti personali, ho lasciato in via definitiva la casa di Villanova de Gaia. Esilio per esilio, mi ero detto, tanto valeva riviverlo fino in fondo in un posto solitario, in faccia all'immensità dell'oceano. Ricordo che era un lunedì di marzo, di sera, a Praia de Mira. Nessuno per strada, le case quasi tutte vuote, non un'anima lungo la spiaggia tranne me e l'oceano agitato di fronte ai miei occhi, a suggerirmi che la mia faccenda personale, a vederla nell'economia dell'universo, era appena un minuscolo puntino del tutto marginale. All'inizio, quando venivo qui le prime volte con Maria Elena molti anni fa, l'idea di trovarmi a tu per tu con il mare oceano, come lo chiamavano secoli fa, mi affascinava terribilmente, arrivava quasi a destabilizzarmi. I portoghesi ci si sono abituati, l'hanno varcato per secoli e l'hanno assimilato. È una parte di loro, del loro paesaggio, della loro storia. Ma noi, invece, intendo noi gente del Mediterraneo, l'oceano fa ancora un certo effetto. Vedi, amico mio, secondo me, dentro di noi mediterranei, inconsciamente, è rimasta sedimentata l'antica idea dell'oceano come confine del mondo, oltre il quale c'è solo l'ignoto, E così succede che quando ce lo troviamo davanti ci sgomenta, o nella migliore delle ipotesi ci affascina, ci ammutolisce. Così, appena posso, fuggo qui a sentire l'oceano e a riposarmi, perché non c'è un altro posto al mondo dove riesco a dormire così bene come a Praia de Mira. E poi, non so neanche perché, è sempre stato qui, molto più che nella casa troppo grande di Villanova, che ho potuto accorgermi della vita e sorvegliare gli sgarbi del tempo. Era nei nostri fine settimana a Praia de Mira, tanto per fare un esempio, che mi accorgevo di quanto stessero cambiando i figli, perché era qui più che a Porto o a Villanova, che 6 o 7 anni fa saltavano agli occhi le loro circonvoluzioni adolescenziali. Tutto il resto qui a Praia, le prime fughe da fidanzati con Maria Elena, Vittorio e i suoi piatti di pesce, gli sguardi di Benedita e le sue promesse, ma anche i tentativi falliti di imparare ad andare sul surf fra le risate di Cristina e Fabio, e poi gli uragani, la terrazza della mia casa puntata a para-occidente, le settimane al sole d'agosto. Tutto è stato parte di una commedia che intanto andava a costruirsi, una battuta alla volta, davanti alla linea d'orizzonte del grande mare oceano. Le fughe, già. La mia grande fuga, quella che mi aveva portato fin qui, la iniziai tanti anni prima da Parma. Pochi anni dopo, invece, è stata mia madre a scappare dalla realtà, affondando con la sua mente i suoi ricordi e la sua coscienza in un mondo di oblio senza ritorno. Lo zio Alberto, invece, le sue fughe le aveva fatte senza uscire dall'Alto Adige, solo spostandosi verso Oriente e scegliendo via via località sempre più piccole, prima trasferendosi da Bolzano a Bressanone e poi da Bressanone a Sant'Andido, paese oltre il quale c'è solo il confine, la foresta che ti porta in Austria. Un percorso all'insù, come un salmone va dal mare al torrente, come se a ogni passo lo zio avesse deciso di isolarsi sempre di più. Ecco, penso che io sono già arrivato una volta al limite estremo del mondo, sulla riva dell'oceano. Non mi sento ancora così vecchio da non avere più voglia o forza o tempo per cambiare qualcosa, soltanto che da qui, dalla soglia dell'oceano, se voglio cambiare qualcosa, posso solo tornare indietro. Il silenzio che mette a posto le cose, di fronte al rumore dell'oceano che diventa parte di riflessione per sistemare le cose, dei casini familiari in Portogallo, e il silenzio di San Candido con lo scenario delle montagne, che serve poi a mettere in ordine le cose anche quassù dopo la grande ricerca. Una domanda che vorrei fare e un'osservazione che vorrei fare. È molto interessante l'analisi psicologica degli anziani, zio Antonio, ma la figura della madre e il silenzio in qualche modo e le riflessioni sulla morte in fondo anche, ecco, da cosa vengono queste riflessioni su l'essere vecchi, il cercare i limiti e poi alla fine il pensiero che passa così di riportare la madre in Italia, che è in un ospizio, in una casa di riposo. Bella domanda. No, allora, sì, ci sono diversi anziani in questo romanzo. Ma questo, Magdalena, ma questo da un lato è necessario perché sono le persone che possono ricordare certi fatti passati, quindi necessariamente diversi di questi personaggi dovevano essere anziani, dal anche colonnello ormai in pensione, lo stesso giornalista, ormai anche lui non più giovane. E sì, perché è un romanzo che comunque ruota molto anche intorno alla memoria, e quindi sì, ho lavorato un po' su questo, devo dire, perché lo ritenevo assolutamente necessario. È un romanzo che fa un continuo gioco tra il presente e il passato, con qualche puntatina al futuro, quando Marcello si chiede cosa devo fare adesso della mia vita. Però sì, c'è un amore che nasce a San Candido, sì, è lì, forse c'è, forse non c'è, forse al prossimo romanzo se si chiarisce questa cosa, vedremo. Però appunto sì, la figura della madre, per esempio, mi è venuto in mente perché avevo bisogno anche qui di qualcosa che obbligasse Marcello a delle riflessioni sulla sua stessa vita. Questa madre che è stata portata via, è stato a un certo punto della sua vita, è stato costretto a portarsela in Portogallo perché non poteva fare diversamente. Ormai questa donna non si sa neanche che cosa abbia, ma insomma non parla più, non riconosce, quindi, però in questi vuoti, in questi silenzi della madre, cercavo qualcosa in Marcello, perché è lui poi che se ne deve occupare, e c'è un passaggio in cui lui le parla e le racconta cose anche non vere. Non le racconta, per esempio, che si è separato dalla moglie, non le racconta che lo zio Alberto è morto. E come dice appunto in quel capitoletto, è tutto teatro che faccio per illudermi io stesso di avere un dialogo forse anche migliore adesso con questa madre rispetto al passato. Sì, il confronto con la morte, con gli anni che trasformano le persone, con la vecchiaia che trasforma le persone, era uno dei temi che mi aveva incuriosito da approfondire in questo, non so poi quanto sono riuscito, ma insomma È bellissimo, perché poi c'è questo tipo di analisi e poi ci sono due persone molto anziane, questa Magdalena che dimostra una grande intelligenza, perché poi è quella che dà la soluzione finale del romanzo attraverso il suo non parlare, il suo non dire, e c'è questo colonnello Broi che rimette assieme le caselle, quindi anche delle figure positive dell'anziano ancora molto il colonnello Broi che sa gestire la realtà. Sì, l'ho immaginato appunto come molti ufficiali che continuano a essere carabinieri anche dopo, fino alla fine, ma nella forma mentale, continuamente tenere sempre la mente attiva a cercare di chiarire, di capire le cose. Sì, quello sì. E la Magdalena è un personaggio un po' enigmatico, sì, che però crea a sorpresa una un po' da il là per la chiave dell'ultima sorpresa. È una persona apparentemente molto, cioè no, lo è effettivamente, molto affaticata dalla malattia, dagli anni eccetera, che però ha questo guizzo di intelligenza, riesce a senza neanche darlo a vedere a fornire a Marcello un indizio, gli dà un'indicazione per andare a trovare una sorpresa della fine. Ecco, dicevo prima, adesso faccio il cattivo. Sì. Allora, queste grandi distanze, Portogallo è Alto Adige, l'estremo Alto Adige a est San Candido, quindi grandi distanze. La domanda che mi pongo, ma Marcello che auto aveva? Perché andare da la presa a noleggio, sì, però era una macchina potentissima, perché a un certo punto prende e va da Valtale a cercare Valtale in Val Passiria e ci mette un'ora da San Candido a Saltusio. No. Come ha fatto? Non ricordo esattamente, ma non è specificato esattamente l'ora. No, dice un'oretta e ci siamo. Sì, lo dice Leonardo, ma probabilmente Leonardo diciamo che lo ha fatto per non impressionare il suo passeggero. Altra osservazione. Allora, dicevo che c'è molta attenzione alla toponomastica, alla filologia. Perché Saltusio è sempre in tedesco e mai in italiano? C'è una ragione oppure è una svista? No, non lo so, probabilmente è una svista, no. No, Saltusio è... Non è mai Saltusio. Non è mai Saltusio. Mi fido, se lo dice che l'ha letto da poco. Sì, no, probabilmente... non lo so, non c'è una ragione, no. No, non c'è una ragione particolare. Sì. Evidentemente no, l'ho scritto così per. No, perché dopo dipende. Forse per semplificare, sì, probabilmente. Sì. Ecco, vogliamo dare qualche altro indizio. Allora, sono tutti questi personaggi. Con l'aiuto di Sabine, che è la figlia della signora Mayrhofer, la vicina di casa dello zio, che si è occupata un po' anche lei beneficiaria di una parte dell'eredità di quest'uomo, che paradossi della storia, grande benefattore alla Caritas e anche agli Schützen dell'Alta Valbusteria. C'è questa Sabine che in qualche modo fa da guida sì, negli incontri, soprattutto nelle situazioni più delicate. Ecco, questa è anche una figura di giovane sudtirolese, sì, anche lei con una famiglia sfasciata, che poi in qualche modo si appassiona a questa ricerca di Marcello. Sì, allora... sul discorso sì, delle generazioni più giovani, qui anche ci tenevo a poi abbiamo magari, se leggiamo il pezzo quello dei Valtare, era un'altra delle cose che ci tenevo a sottolineare in questo romanzo, cioè una, almeno da come la vedo io, era poi uno degli argomenti della nostra chiacchierata che facemmo tempo fa. Mi interessava proprio questo un profondo cambiamento che vedo nell'Alto Adige di oggi, degli ultimi anni, rispetto a quello che aveva le sue difficoltà, un clima più teso, più cupo fino agli anni 60-70, dominato da una situazione oggettivamente difficile. E quindi in questo senso si nota, insomma, questo scarto anche che c'è nelle ultime generazioni. Schengen ha ovviamente modificato le cose, perché questo ormai apertura che c'è, io non oso parlare di riunificazione di fatto del Tirolo, però insomma dal punto di vista forse anche più psicologico che di fatto, ma ha rappresentato qualcosa di molto dirompente nella storia di questa terra. Quindi questo anche era un aspetto che mi premeva di mettere in luce, quanto siano cambiate le cose, insomma, rispetto all'Alto Adige di oggi che vediamo, l'Alto Adige che io definisco Felix, perché tutto sommato, non solo dal punto di vista economico, ma insomma c'è un'apertura assolutamente diversa. Un centro come questo lo dimostra, lo si vede proprio, lo si percepisce, di scambio culturale, che è una situazione completamente diversa dal muro contro muro che c'era decenni fa. E quindi in questo pezzettino che sentiamo adesso c'è un po' un battibecco tra Valtaler padre e che ha una figlia circa trentenne, potrebbe essere. Ah sì, sì, giusto trentenne, che dici, sì, perché sei nata nell'87, sì, gli dice proprio perché sei nata nel... Ecco, diciamo chi è Baltalar. Baltalar. Allora, sì. Baltalar è il figlio del presunto terrorista, amico dello zio Alberto, che morì giovane nel 61, e dal quale, cercando di andare, cercando in Austria, di scappare in un momento in cui credeva di essere, o riteneva a torto o a ragione, di essere braccato dai carabinieri, e quindi in questo tentativo di fuga muore accidentalmente. Ed è la famiglia Baltalar, è il figlio di questo Baltalar, è rimasto fieramente legato alla tradizione della Valtassina, quindi alla sua appartenenza al popolo tirolese, ai sentimenti che furono anche di suo padre. Si trova ad avere questo piccolo battibecco con la figlia trentenne, che appunto dimostra un altro tipo di... Ecco, lo zio Antonio di nascosto dava i soldi a questo prete, il Johann Blas, che li dava alla famiglia, una specie di stile Ilfe dello zio Antonio, e che viene fuori adesso questa storia, e gli lascia addirittura una parte di eredità. Ed è una delle famiglie che Marcello andrà a visitare appunto durante la Sastrusio, esatto. Alberto, scusate, sì, zio Alberto. Alberto, sì, Alberto. Ma non suo zio Alberto? Cosa c'entrava lui? Era italiano, non poteva avere niente a che fare con quelli del basse, con faccende del genere. Questo è sicuro, commentò Baltalar con una mezza risata. Nessuno del basso si sarebbe fidato di un vesce. È così che qui chiamavano gli italiani, spiegò Sabine a mio beneficio. Con rispetto parlando, precisò poi Baltalar rivolto a me. Scusi se parlo così, voglio essere sincero. La nostra famiglia è sempre stata tirolese fino al midollo, disse rivolto a me con lo sguardo docile di un cagnolino. Siamo sotto lo Stato italiano, ormai è così, ma noi non siamo italiani. Quelli come mio padre, 50 anni fa, provarono a fare di tutto per tornare con l'Austria, anzi con il Tirol, anche con le bombe. Hanno sbagliato? Non so, forse. Per gli italiani erano terroristi, lo posso capire, ma per noi sono degli eroi. Se oggi il Sud Tirol ha ottenuto quel che ha ottenuto, lo dobbiamo a loro. Papà, ancora con queste storie del Tirol, dell'Italia, dell'indipendenza e della lingua, e le minoranze, le maggioranze, le rivendicazioni, e questo e quello, rimandò la giovane Baltalar dal fondo della stanza, mentre con il bavaglino puliva la bocca al bimbo. Da quando sono nata non ho fatto altro che sentire parlare di queste faccende. Per fortuna ci ha pensato l'Europa, hanno abolito la frontiera e adesso da qui all'Austria è tutto aperto. Così la finirete un giorno. Hanno abolito la dogana, non la frontiera, puntualizzò Baltalar. Esistnik da sempre. Non è la stessa cosa. Ma figurati, cosa cambia? Parliamo la stessa lingua. Vai anche a fare il pieno di benzina al di là del confine e paghi con gli stessi euro che usano di là. Ma va là. Cosa ne sai tu che sei nata nell'87 e che per giunta hai anche sposato un vesce? Rispose alla fine Baltalar scuotendo il testone. Non era facile capire quanto gliene importasse veramente dietro al suo sorriso ironico. L'ho fatto solo per fare un dispetto a te, ribatté Rosmarì. Così adesso hai anche un nipotino mezzo italiano. Toh, disse infine facendoci l'occhiolino mentre andava in cucina per lavare le posate del bimbo. Entrò una giovane coppia di clienti della Stoff di ritorno dalla giornata sulla neve. Lei li salutò in italiano. Ci sono un sacco di cose nel mondo di oggi che mio padre non avrebbe mai immaginato, ci disse il Valdetaler infine. Dopo è bellissimo come i coniugi Valdetaler vadano davanti al notaio. Io non svelerei altri dettagli perché altrimenti poi perdiamo il gusto della sorpresa. Non legge più nessuno. Ma questo serve anche a stimolare. No, dicevo, i Valdetaler è bellissimo quando vanno poi davanti al notaio, come si presentano, e lo stupore di vedersi in qualche modo graziati da questo gruzzolo che anche a loro arriva. Forse dobbiamo anche avviare la chiusura. Ecco, uno che non legge tanti romanzi si è appassionato a questa storia e quindi non rimane che invitarmi a leggerlo e magari forse qualcuno ha qualche domanda da fare. Gli consigliamo di andare la prossima volta in vacanza in Valpadia, così impara un po' della cultura ladina. Però... e si fa. Ah, lei, ma allora conosco bene anche. Ci vogliono almeno 3 anni allora, una volta la Val di Fassa, una volta la Val Gardena, una volta la Val Padia. Ma quello è Trentino. Certo. Sì, ma già conosco, ma comunque è un impegno. Entra nella psicologia dei ladini. Problemi. È stato lo spunto. Sì, ma assolutamente corretto poi, perché è una cultura che mi incuriosisce altrettanto. Sì, certo, era... Il problema è che Sabine a un certo punto gli fa fare anche a questo Marcello un giro. In Valdenosta si parlava così. Certo, ma difatti, ma poi è stata molto germanizzata la Valdenosta, ancora adesso ci sono molti, molti cognomi che sono ladini. No, il problema è che non è arrivato nelle valli ladine, scherzo naturalmente, perché una mattina quando vanno in montagna con la Sabine, questo Marcello che forse inizia a sentire qualcosa, gli fa fare in 3 ore, lo porta al lago di Braies, e poi in 3 ore lo porta anche a Misurina. Allora, un'altra sfida. Sfida, una bella sfida. È il giro da giapponese. Sì. Si scende la macchina, 4 foto e via. Ecco, quindi da parte mia un invito a leggere, che è una lettura veramente piacevole e interessante, perché dicevo, ha una Coletti ha veramente una capacità di analisi psicologica della nostra realtà che è veramente notevole, e non ci sono i luoghi comuni soliti. Ho cercato di evitarli, ecco, quanto fosse possibile. Qualche anno fa ero andato a intervistare Josef Zoderer su a Tarento, era uscito da poco, non mi ricordo quale dei suoi romanzi, e mi consigliò di leggere, mi mise in contatto con un altro scrittore di frontiera, cioè la categoria degli scrittori di frontiera. Questo scrittore di frontiera era Carmine Abate, per il quale io avevo fatto un po' da intermediario per la pubblicazione del suo primo romanzo, La moto di Scandenberg. Ora, Carmine Abate, che abita nel Trentino, no? A Besanello, è uno scrittore di frontiera, ma parla del Brescia e della Calabria. Adesso abbiamo anche uno scrittore umbro, di Città di Castello, cresciuto a Spoleto, che vive a Perugia, che è uno scrittore di frontiera sull'Alto Adige, e mi sembra una cosa bellissima. Per questo dicevo, un cittadino europeo nato a Città di Castello. Si chiude il cerchio. Ho chiuso il cerchio come il romanzo. Perfetto, grazie. Vi assicuro che tornano tutti i conti. Grazie.